Prima di tutto perché c'è un numero di tamponi sicuramente molto elevato, diciamo che probabilmente, anzi in questi giorni, la Lombardia sta facendo più dei tamponi che a marzo e febbraio venivano fatti in tutta Italia, no? Si parla circa tra i 20 e i 40.000 tamponi giornalieri. La maggiore ricerca del virus fa sì che si trovino più contagiati in una regione, lo ricordiamo, in cui ci sono almeno come residenti circa 10 milioni di persone, quindi comunque un numero importante del concentramento della popolazione d'Italia proprio qui in Lombardia. Quindi la maggior ricerca del virus sicuramente sta facendo sì che si trovi, che era un po' quello che veniva detto anche nella prima fase, che se ci fosse stata un'indagine a tappeto su quante persone avevano preso il Covid, probabilmente i numeri erano 10 volte superiori a quelli che si stavano mappando. Quindi da un lato sicuramente questo. L'altro dato importante è che vediamo uno spostamento, almeno in questo momento, dei punti critici. Abbiamo Milano e l'Interland adesso associato, ovvero Monza e Brianza e la provincia di Varese, come le tre zone della Lombardia più colpite, mentre la Bergamasca e il Bresciano, che nella prima ondata furono i centri, no, della diffusione del virus, o comunque dove l'impatto fu molto grosso, in questo momento hanno dei numeri leggermente più bassi, circa un centinaio di casi al giorno, ma con una trasposizione in numeri ospedalieri molto più bassa. Basta pensare che l'ospedale di Brescia, che è uno dei 18 ospedali Covid individuati dalla regione Lombardia, sta ricevendo malati dalle province di Mantova, Cremona, Bergamo e Milano, e i posti fortunatamente in terapia intensiva non sono ancora in saturazione. Solo da ieri hanno iniziato il blocco delle ferie per chi lavora al pronto soccorso. In generale la situazione non è ancora critica, come invece arrivano notizie dagli ospedali milanesi. Quindi, insomma, diciamo che la situazione è sicuramente grave, sicuramente complessa, ma è anche legata a forse l'unica cosa che è stata messa in campo tra prima e seconda fase di differente e di prevenzione legata al coronavirus, ovvero quello dell'aumento dei tamponi. C'è anche il coprifuoco da ieri, questa chiusura dalle 23. Molti mettono in dubbio che, vista la fascia oraria indicata, possa servire a qualcosa. Tu che idea hai di questo? Io credo che è un po' come nella prima fase del virus, scontiamo tutte le arretratezze culturali del nostro paese. In qualche maniera aggregazione, spettacolo, vita notturna, anche la concessione allo sballo vengono considerati un qualcosa di sacrificabile, di superfluo, di non essenziale. Ve lo ricorderete Conte quando disse proprio a febbraio: dobbiamo rinunciare alle cose non essenziali. Quindi, in qualche maniera, l'intervento sia di chiusura, mi viene da dire, delle attività a mezzanotte, sia ancor più questa violentissima, perché secondo me è una scelta molto violenta quella di usare anche la parola coprifuoco, che ci riporta a periodi di guerra. Noi non siamo in guerra con nessuno, il virus è un elemento della natura, è un elemento con cui conviviamo tutti i giorni e non è certo un assetto da guerra che ci può far uscire o convivere con una dimensione naturale. Rispondono più che a delle esigenze del tutto sanitarie, a una dimensione e un costrutto culturale. Tant'è che probabilmente nel dispositivo messo in campo dalla regione Lombardia la questione più importante è quella della didattica a distanza per le scuole superiori, per alleggerire l'uso dei mezzi pubblici e per alleggerire la circuitazione di persone nelle città, perché molto probabilmente i dati reali ci dicono che è più facile ammalarsi su un treno, su un autobus pieno, che al ristorante o bevendo una birra. Il problema è che fermare i mezzi pubblici, fermare le fabbriche o bloccare un'altra serie di attività, sia per la costruzione ancora economica del nostro paese, cioè non dovrei dirlo io da convinto anticapitalista, ma comunque la retta economica di questo paese passa ancora dalla produzione, dalle fabbriche e dalla distribuzione, quelle cosiddette dell'economia di primo livello, più che di quelle di terzo, come invece succede in altre parti del mondo. Quindi si fa un sacrificio su ciò che viene considerato da un lato non essenziale e dall'altra parte quelle economie che meno di altre altre influiscono sulla stabilità della rete economica dell'Italia e della Lombardia in questo caso, e si fa in una maniera subdola, perché a differenza del lockdown in cui, obbligando a chiudere le attività, lo Stato si doveva occupare di queste attività, lo si fa in maniera spuria, caricando tutte le responsabilità economiche e il futuro delle persone che ci lavorano agli stessi settori. Quindi c'è questa dimensione, e il coprifuoco, secondo me, non è la misura, la prima misura è quella più efficace. Probabilmente, come tutto ciò che riduce il numero di persone che girano per la città, potrebbe ridurre il numero di casi, ma non lo fa su una prassi sanitaria, ma esattamente come il lockdown, come razio estrema di contenimento laddove non ci sono gli strumenti per fare altro. Strumenti che probabilmente invece ci sono, si potevano mettere in campo, ma in questi mesi estivi colpevolmente non è stato fatto. Un'ultima battuta veloce sul versante giudiziario: qualcosa si muove, in particolare nell'inchiesta per la mancata zona rossa ad Alzano e Nembro e l'anomala riapertura del pronto soccorso, appunto, dell'ospedale di Alzano? Sì, è stato iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell'ospedale di Alzano, che all'epoca era responsabile dell'ospedale di Alzano, adesso mi pare che abbia un ruolo all'interno proprio delle maglie sanitarie del sistema lombardo, e questo si racconta molto anche della struttura e del sistema Lombardia. Bisogna capire, su questo c'è un grande lavoro dell'associazione Noi Denunciamo, che sta facendo un grande lavoro di racconto, mappatura, denuncia di quello che è accaduto soprattutto nella bergamasca. Bisogna capire, perché come sempre sappiamo che i tempi della magistratura sono comunque ex post i casi, quindi potremmo avere verità e giustizia su quello che è stato, ma non è detto che questi tempi collimeranno anche con la possibilità di fare qualcosa affinché in questa seconda fase pandemica quei gravi errori che ci sono stati nella prima non si ripeteranno.